Siete all'ascolto di radioarchimede.it. Buon pomeriggio a tutti e bentornati all'ascolto di Sono solo nuvolette, la striscia settimanale, e strisce questa settimana non è una parola scelta a caso, striscia settimanale, lo dico ancora una volta, striscia mi piace, ha un motivo. La striscia settimanale ce la posso fare, sono un po' un diesel oggi, arrivo da 4 giorni a Torino Comics che sono stati un po' complicati. Bentornati in onda, ricominciamo dall'inizio perché ce la posso fare, dai. Benvenuti, dovrei inventarmi una maniera per entrare meglio. Giovanni, aiutami. Giovanni regia, che è molto bravo a supportarmi scegliendo i pezzi. Però la novità di oggi è che i pezzi non li ho scelti io, perché l'ospite qui, che è qui alla mia sinistra, lo vedete già in webcam, sto facendo tutto i preamboli, tutta la suspense, quando in realtà chi ci vede in webcam sa già tutto, e chi ci legge su Facebook sa già tutto, quindi perché la faccio lunga lo so solo io. È un piacere avere qui con noi oggi a Sono solo nuvolette Sergio Ponchione. Ciao a tutti. Sergio, oggi celebriamo, mi pare, qualcosa per cui stai venendo intervistato parecchio, sei piuttosto sotto i riflettori, che è la copertina dei 50 anni di Linus, che è la rivista di fumetti. Esattamente, sì. Ho avuto questo grande piacere e onore di illustrare la copertina del cinquantennale, d'accordo con il direttore Stefania Rumor. E niente, è stato un impegno notevole perché si è pensato subito a un'immagine molto celebrativa che raccontasse i 50 anni di storia della rivista in una pagina sola, e abbiamo scelto un bel po' di personaggi apparsi tra le sue pagine. Ovviamente non sono tutti, dovevano essere una cinquantina, poi già si sono allargati a quasi 120. Credo che già una delle difficoltà sia stato sceglierne così tanti. Assolutamente, anche perché poi la memoria di entrambi, mia e del direttore, è quella che è, diciamo, quindi abbiamo cercato di non far mancare i fondamentali, sì. Ok, tra l'altro ci sono anche proprio capisaldi del fumetto che, per esempio, io ignoravo che fossero passati da Linus, come Superman qua all'angolo. E invece è stato pubblicato anche lui, sì. Sì, okay. Sì. Abbiamo dato la precedenza a personaggi creati ad autori che avevano un personaggio creato apposta per la rivista, sì. E quindi purtroppo molti sono stati esclusi, ma c'è anche un gioco legato alla copertina, quindi i personaggi dovranno essere esatto, riconoscibili. Esatto, parecchio. In quarta di copertina, per chi vuole giocare, c'è la silhouette, e quindi c'è anche una specie di concorso. Questo, io sono sempre Fulvio The Cat su Twitter, quindi se volete seguirci e interagire online, poi c'è una pagina Facebook, Sono solo nuvolette. Se volete anche fare qualche domanda a Sergio, saluto subito un mio amico che si chiama Emanuele ed è all'ascolto, e da 10 minuti che mi manda scemate su Twitter. Infatti mi ha subito preso in giro per la partenza un po' loffia. È bello, il sostegno degli amici è la cosa migliore. Linus è la rivista, in realtà è un po' difficile dire che è la rivista, visto che ci sono state tante importanti riviste di fumetti. Per chi legge fumetti oggi può sembrare strano, perché in realtà il formato rivista associato ai fumetti è andato un po' perdendosi. Oggi ci sono molto meno riviste in edicola legate al fumetto, sopravvivono colossi come Lancio Story, che poi è una rivista contenitore di fumetti, quanto Linus è un ibrido particolare perché contiene fumetti e articoli d'attualità così. Sergio, il tuo rapporto da lettore con Linus, prima che da illustratore, com'è? Ma io, diciamo che sono stato un lettore di Linus, un fruitore relativamente recente, cioè ho cominciato proprio a conoscerlo bene quando ho iniziato a collaborarci nel 2009. Prima lo conoscevo, però, come ho detto anche in altre occasioni, sono sempre stato quasi un po' intimorito da Linus per la sua componente sociale, politica, insomma di un certo spessore. Quando ero ragazzino e bambino ero più attirato da cose ovviamente forse più disimpegnate anche, quindi ho avuto sempre un po' un certo timore reverenziale. Beh, credo che 50 anni di storia siano molto importanti. Assolutamente. Quindi l'ho cercato ogni tanto sulle bancarelle dell'usato, qualche volta in edicola, senza però avere quel rapporto così di molto stretto, che poi invece ormai ho ogni mese dal 2009, sia come autore che anche come lettore, certo. Ma ha qualcosa di contagioso comunque? Io l'ho scoperto, è contagioso e che tende a essere al passaparola. Io per esempio l'ho scoperto molto di recente, sarà qualche anno, perché un'amica quando veniva a trovarmi in treno me lo lasciava, lei diceva come negli anni 70 che si prestavano le riviste, insomma passavano di mano in mano. Sì, ma di per sé ha qualcosa, deve essere al karma della diffusione Linus, perché forse fa piacere condividerlo. Un po' la carta, un po' il fatto che appunto è ancora l'unica rivista rimasta. E... Ma banalmente anche mi è capitato di vederlo. Fumetti, certo. Certo. Banalmente mi è capitato di vederlo in sala d'aspetto di una scuola di amici che hanno una scuola che fanno ripetizioni e hanno sul tavolino tutti i numeri di Linus. Bene. Detto. E a me personalmente da lettore colpì questa capacità ancora di, con questi articoli, di interpretare la realtà ma in modo molto semplice, non snob. Mm. E questo è qualcosa che probabilmente viene dalle radici di Linus, perché di per sé l'aver colto il contenuto forte narrativo nelle strisce da Charlie Brown in avanti. Nell'introduzione cioè. Stefania Rumor parla anche di questa specie di confronto tra Linus e il male. Che il male era proprio la rivista di satira quando Linus era più gentile e lavorava, sì, molto, cioè, più diverso, sulla narrazione. Un diverso approccio al tipo di satira. Il male era più cattivo, se vogliamo, puntava più a una comicità più d'effetto che tendesse un po' più a scioccare il pubblico. Invece Linus viaggiava a un livello un po' più forse contenuto, però che magari lasciava più il segno nel tempo, che andava al di là della, esatto, della provocazione pura, ecco, esatto, immediata. Io credo tra l'altro che ci siano molti lettori. Adesso la cosa buffa, questa amica che me li passava, lei diceva che leggeva solo i fumetti. Non penso sia l'unica. Ma c'è, in realtà c'è il doppio livello, perché poi magari nel passaggio magari qualcuno predilige gli articoli, qualcuno predilige i fumetti. Poi a me piace considerare una piccola oasi di libero pensiero. E in questo momento il libero pensiero, tanto sbandierato, la libertà, eccetera, sono concetti che di questi tempi forse il corrispondente del libero pensiero è l'aiutare a capire. Qualcuno dice che la frase filo conduttore del XXI secolo è "It's more complicated than that", è più complicato di così. Sì, penso anch'io che lo sia, perché in realtà noi abbiamo molti più strumenti per analizzare le cose di un tempo, però analizzandole con più strumenti si vedono quindi molte più sfaccettature che complicano il quadro d'insieme. Una volta c'erano meno punti di vista, forse c'erano meno possibilità di comprendere i fenomeni e quindi era più facile accodarsi forse, esatto, a delle visioni comuni. Ora ognuno può farsi la sua, che è una gran bella cosa, però si crea un coro ovviamente di un brusio di sottofondo che a volte fa bene, altre volte invece complica ancora molto di più le cose, sicuramente. Esatto, esatto. E alla fine tendono a imporsi tante idee dominanti, che sono quelle fatte velocemente con, esatto, il clamoroso, il link su Facebook, sui social, sì, network, clamoroso, eccezionale, il video che non ti vogliono far vedere, poi magari è una scemata. Poi si chiama clickbait, no, c'è ormai tutto un meccanismo commerciale. Conta molto di più l'annunciare una cosa che è la cosa stessa, cioè, esatto, la cosa viene vissuta nella sua proclamazione, poi il contenuto diventa secondario perché non c'è neanche più tempo per fruirlo tanto, il contenuto. C'è già un altro annuncio che ti distrae da un altrove. Devo dirti che da professionista dell'editoria credo che riviste come Linus sopravviveranno. Speriamo. Sono cadono in questo interregno che probabilmente sta finendo, quantomeno della crisi economica, quantomeno all'estero è finita. Poi noi l'Italia siamo sempre un paese molto particolare, quindi le cose succedono a modo nostro, ma credo che l'onda lunga, la crisi abbia distrutto tutto, la crisi e l'avvento del digitale anche abbiano distrutto tutta una serie di totem, ma ciò che è rimasto rimarrà, perché comunque la volontà di leggere, di quella contemplazione in più, di quel filtro rispetto al mare di informazioni che ricevi dalla rete, che ti dà una rivista pensata con una direzione editoriale, credo che non te lo dia nient'altro. Poi Linus è una rivista che si presta anche a varie riletture, secondo me, quindi ha molte pagine, gli articoli sono molto approfonditi e quindi insomma richiede un certo tempo di lettura che non è indifferente. Ora è disponibile anche in edizione digitale da qualche numero, però so che molti lettori storici l'acquistano addirittura in entrambi i formati perché vogliono avere anche il, certo, corrispettivo cartaceo. Di queste celebrazioni dei 50 anni c'è qualcosa che ti ha sorpreso? C'è qualcosa che anche tu non sapevi della rivista e hai scoperto? Ma sì, parlando qua e là, sì, abbiamo fatto una presentazione a Milano all'Università Cattolica e con altri, insomma, noti relatori, ognuno ha portato la sua esperienza e ognuno ha degli aneddoti, ha delle cose legate alla rivista che la rendono così un elemento scolpito nel tempo cui uno appunto può parte dare della propria vita. Sì. potremmo dire così, parte della sì, propria vita. Sì, assolutamente, li ha accompagnati, come la musica, come il fumetto. Sì, sì, sì, nei lunghi percorsi della loro vita. Cose che non conoscevo, ma io mi stupisco ogni volta, io non ho la conoscenza di ovviamente tutte le annate, anzi. Mi stupisco di collaboratori sempre nuovi che magari conosco in altri ambiti, ho scoperto che ha collaborato anche su Linus, quindi è sempre un ulteriore arricchimento e prestigio che... C'è un personaggio che anche tu hai scoperto di dover disegnare e non sapevi che fosse passato fuori Linus? Assolutamente, la maggior parte di quelli in copertina forse, no, forse vabbè, la maggior parte, diciamo una buona parte, sì, delle strisce apparse, ovviamente io ero piccolo, apparse magari solo in quegli anni lì su Linus, che poi non sono state riprese altrove, sì sì. Esatto. Stefania mi diceva dei nomi, io cascavo un po' dal pero, poi mi sono parliamo di Stefania Rumor, che è il direttore di Linus. Certo, certo. E un'altra cosa molto interessante, immagino che sia, e qui entriamo poi al di là di Linus sul discorso tuo di autore, che non ci sono tanti autori, disegnatori di fumetti, autori che abbiano questa tua versatilità, quindi hai dovuto imitare, andare molto vicino a tanti, tantissimi stili diversi. Sì, io ho cercato di rendere i personaggi molto riconoscibili e che fossero il più fedele possibile ai disegnatori originali, ma nello stesso tempo li ho un po' amalgamati col mio segno. Sì. Ecco, quindi... Vabbè, se fossero stati troppo diversi, probabilmente l'aspetto sarebbe stato di patchwork. E se fossero stati anche troppo troppo fedeli, beh, non ci sarebbe stato più gusto a farli. Cioè, devo metterci qualcosa di mio comunque, certo, se no. Certo. Assolutamente. E c'è un personaggio che non avresti mai immaginato che avresti disegnato e che invece qua ti sei ritrovato... Sto riguardandola, ma ce ne certi che non conoscevo, quindi appunto personaggi francesi come quelli di Copy, la donna seduta o... sì sì, no ce n'è parecchi assolutamente, ma diciamo che quelli con cui ho sudato di più fare sono stati Corto Maltese, Valentina, diciamo un po' i mostri sacri del fumetto italiano. Certo. Che vanno al di là della strip, ma sono delle icone vere. Esatto. E proprie. Allora lì ho cercato proprio di... Ho detto, cavolo, adesso in copertina lo devo fare bene, perché sennò ho gli occhi addosso su quei due o tre personaggi lì e sapevo già che... Certo. La dimensione, perché tra l'altro questa copertina è riprodotta all'interno del numero, come tra l'altro poster. È il numero in edicola questo mese come poster. Yes. E il poster è molto più grande. E la dimensione originale del disegno quant'era? È una via di mezzo fra la copertina e il poster. Diciamo che è una 3 più o meno. Una 3 è un po' più sul quadrato, perché la copertina di Linus tende al quadrato, quindi è in proporzione diagonale con la copertina. Non è molto grande. Diciamo che i personaggi sono di qualche centimetro l'uno. Sì. E quanto tempo richiede realizzare una copertina del genere? Ho lavorato 2 settimane con un paio di giorni di documentazione, a cercare tutte le immagini su internet di personaggi che non conoscevo. Poi ogni personaggio richiede a volte più di un'immagine, perché non si capisce bene come è fatto, come è disegnato. Certo. Quindi ci vogliono 2 o 3 immagini e molti li ho copiati direttamente dal monitor, mi sono messo a disegnare di fianco al computer. E poi ho cercato di far interagire anche un po' i personaggi fra loro, avvicinandoli per tematiche. Questa è una cosa molto particolare, perché poi secondo me si vede anche i personaggi più importanti, che ci sono... c'è Charlie Brown, i Peanuts, c'è Charlie Brown qua, ma ci sono Lucy e Linus qui. Sì, infatti Linus è la sua coperta, è l'elemento unificante dei personaggi, che il numero uno. Esatto, il numero uno se la abbracciava piccolina, contento. 50 anni dopo questa coperta è diventata un copertone, un tappetone che lui stende per terra, e sopra ci sono tutti i protagonisti della rivista che brindano. Tra l'altro, giusto per contestualizzare, i Peanuts è di Charles McSchultz, è probabilmente la più importante striscia di tutti i tempi, è una delle più importanti, che ha saputo raccontare con una sintesi e una tenerezza estrema il mondo dei bambini, il mondo degli adulti dal punto di vista dei bambini. E alcuni personaggi sono talmente iconici, come Snoopy, come Woodstock, come lo stesso Charlie Brown e Lucy, che vivono al di fuori, sono altri personaggi che vivono al di fuori del fumetto. Sì, sì, sì, assolutamente. La sua bravura è stata proprio quella di fare delle icone in cui si sono rispecchiate intere generazioni, dai più piccoli ai più grandi, e dargli quell'universalità che poi ha fatto la sua fortuna della striscia. Okay. Proprio. Da questa puntata abbiamo una piccola novità che mi è stata suggerita da un'autrice che mi ascolta, visto in questi giorni, che speriamo che, tra l'altro possiamo anche dirlo, è Cinzia Di Felice, che è una bravissima autrice di Ivrea che disegna per la Francia. Mi ha suggerito, perché non proporre agli autori ospiti di suggerire una loro playlist. Quindi c'è una cosa divertente, che io adesso lancio la canzone, ma in realtà lancio l'autore che lanci la canzone. Quindi Sergio, la prima canzone, cosa hai scelto? Ho scelto il mio musicista preferito in assoluto, che è Frank Zappa, e il brano è Camarillo Brillo. Ok. E rieccoci in onda, sempre a, sono solo nuvolette, sempre a Radio Archimede, sempre con Sergio Ponchione, copertinista in questo caso della edizione di Linus dei 50 anni in edicola questo mese, ma fumettista, illustratore. Adesso approfondiremo un po' la, la storia professionale, il presente, il passato e il futuro, qui facciamo anche un po' di divinazione di Sergio Ponchione. E chiacchierando adesso fuori onda con Giovanni, in quella parte di oscurità che voi ascoltatori non saprete mai, la parte di nostra segretezza, perché una parte dell'iceberg deve sempre stare nascosta, e abbiamo scoperto che qui alla Biblioteca Archimede, che è la sede, la Biblioteca Multimediale Archimede di Settimo Torinese, che è la sede di Radio Archimede, da cui trasmettiamo, c'è anche una bella collezione di Linus, quindi se a qualcuno venisse voglia di sfogliare vecchie edizioni può essere un'occasione per fare un passaggio da queste parti. Sergio Ponchione, tu fai risalire, hai un ricordo che fai risalire alla decisione di dedicarsi professionalmente al fumetto? C'è un qualcosa, un incontro, un qualcosa? Come sempre i supereroi hanno la storia dell'origine. E credo che avendo avuto varie interviste ti sia capitato di dover ricondurre un qualche incontro, qualcosa, e quindi è una domanda che sembra quelle sulla vita, l'universo e tutto quanto, però a volte c'è una risposta semplice, magari non completamente vera, magari un po' aggiustata, ma c'è. Un incontro vero e proprio no, è una decisione che ho maturato già quando ero piccolo alle scuole elementari, cioè proprio okay. Era una cosa che è nata con me, io già sfogliavo fumetti prima di imparare a leggere. C'è un aneddoto, sì, che l'ho raccontato anche in un pezzo che ho scritto per un blog, che da bambino una volta mia mamma mi ha strappato un numero del Corriere dei Piccoli in due pezzi, avevamo litigato per qualcosa, avrò avuto 3-4 anni, me l'ha strappato proprio davanti agli occhi così, e io ho pianto talmente tanto che ho dovuto attaccarlo con lo scotch pagina per pagina, proprio come fosse nuovo, e solo così ho smesso di piangere. Quindi okay. Quello veramente dà già l'idea, anche se inconsapevolmente, di quello che rappresentava per me l'immagine stampata. Okay. E ho dei ricordi così. Qualche personaggio dei Corriere dei Piccoli a cui sei più legato? Ma beh, mi piaceva molto la Pimpa, mi piaceva molto okay. la Steffi di Grazia Nidasio, moltissimo quella lì. Poi siamo passati, poi vabbè, alle scuole elementari, vabbè, tutto il mondo Disney. Però il mio primo vero grande amore è stato Braccio di Ferro, quindi alle elementari con un mio compagno di scuola me l'ha fatto un po' conoscere lui, e allora a quell'età lì uno si esalta uno con l'altro. E anche qua tra l'altro Braccio di Ferro c'è, quindi assolutamente. Io non sapevo che Braccio di Ferro fosse passato per il numero uno, sì, poi credo forse anche in qualche numero successivo, sì. Ok. Sì. E quindi niente, sono varie cose, vari ricordi, aneddoti, beh, quelli ce n'ho tanti, cioè. Però è una decisione mia che ho sempre voluto fare quello, non sapevo come avrei fatto, non avevo la più pallida idea, però anzi, forse prima volevo fare l'edicolante, ho detto, cioè, male che vada l'edicolante, che tanto sono sempre in mezzo ai fumetti. Ok, beh, poi però vabbè. Un compromesso accettabile. Visto che mi piaceva disegnare, me la cavavo bene, forse meglio la seconda. Ok, il primo lavoro professionale che sapresti? Ma le mie prime collaborazioni risalgono alla rivista Maltese Narrazioni, che è una rivista, un'importante rivista di narrativa, uscita negli anni 90, che ha preso forma nell'Astigiano, fra la birreria al Maltese di Cassinasco, dove un gruppo appunto di amici avevano messo in piedi questa rivista, che nel tempo si è sempre più ingrandita. Dal Maltese Narrazioni sono usciti alcuni più importanti scrittori contemporanei, quindi cioè Matteo Galiazzo, Marco Drago, Ernesto Aloia, quindi tutti autori che hanno pubblicato poi per importanti editori di narrativa. E io ho pubblicato le mie prime cose lì, i miei primi brevi fumetti, e contemporaneamente cercavo di lavorare in Bonelli. Conoscevo Gino Vercelli, disegnatore astigiano di Martin Mister, Zona X all'epoca, e grazie a lui, così insomma, mi aveva seguito le tavole, avevo fatto delle prove ed ero riuscito poi a ottenere anche insomma un lavoro in Bonelli su Jonathan Steele, che era una serie che è uscita. Quanti albi hai disegnato? Ho disegnato 4 albi miei interi, più 2 o 3 in collaborazione con altri autori, quindi Matite Occhine. Poi la serie è passata alla Star Comics, un'altra casa editrice, e anche lì ho fatto un paio di albi miei, più dei pezzi qua e là. Tra l'altro Jonathan Steele è stato un personaggio molto particolare nella galassia dei fumetti, dei personaggi a fumetti, Bonelli e poi Bonelli di. Nell'ambiente si considera Bonelli di tutto ciò che è informato da Alberto Bonelli, giusto per dare un... A volte nell'ambito del fumetto e della cultura pop c'è un sacco di gergo per iniziati ed è ciò che tende un po' ad allontanare i nuovi lettori, perché sembrano tutte cose complessissime, difficili, per noi sono scontate perché ci siamo cresciuti. Certo. E Jonathan Steele è particolare perché nasce dall'esperienza di Zona X, di La Stirpe di Elan, mi pare fosse, in qualche modo. Più o meno, diciamo che l'autore è lo stesso, Federico Memola. Esatto. E sì, c'è un personaggio forse nella serie della Stirpe di Elan su cui che assomiglia un po' a Jonathan Steele, però non credo. No, che no, sia, non, però, non certo. Narrativamente, però è un po' sì. Legato all'autore. Sì, beh, tematiche, diciamo, fantasy unite a... azione e spionaggio alla James Bond, sì, insomma sì. Un mix di due o tre correnti fumettistiche, anche cinematografiche, certo. Sì, certo. Certo. E tra l'altro anche se vogliamo anche citare una menzione in parallelo, Jonathan Steele era in parallelo, è finito poi a essere il fumetto gemello di Lazarus Ladd, che è stato il primo Bonellide non Bonelli. Scritto e portato in Star Comics da De Capone, che è scomparso, un importante sceneggiatore italiano, purtroppo scomparso quest'anno. C'è tutto un modo di raccontare il fumetto Bonelli a partire da Sergio Bonelli, ma addirittura dal padre Gianluigi Bonelli, è la narrativa popolare del Novecento. È un discorso molto complicato da fare, però mi piace sempre accennare un po'. Infatti Paolo Bacilieri, scrivendo Squid Salgari, che è un racconto a fumetti di Emilio Salgari, dice che tutti i fumettisti, tutti i disegnatori di fumetti, i sceneggiatori di fumetti italiani si riconoscono un po' in Salgari il loro padre putativo. Però tu, Sergio, hai anche influenze molto diverse che vengono più dagli Stati Uniti, dal fumetto indipendente americano. Come concili la doppia anima? Sì, io sono cresciuto molto con gli autori americani, ho letto tanti supereroi e poi nel tempo ho scoperto anche cose molto più vecchie da cui poi derivavano appunto supereroi e simili. E sono sempre stato affascinato dall'underground anche, quindi da tutto ciò che era un po' fuori dal circuito ufficiale. Questo nel fumetto come nella musica e nelle arti in generale. Mi sono sempre interessate le cose, diciamo, un po' meno in vista, perché okay. Posso dirti una frase che un po' racchiude lo spirito, che alle luci della vetrina ho sempre preferito di più le ragnatele del retrobottega. Ok. Questo è molto perché ci sono le cose più interessanti, a volte sono nascoste, e okay. Quindi andavo così a setacciare vecchi fumetti, vecchi autori magari misconosciuti, però poi trovavi delle sorprese molto intriganti. Ok, allora magari vediamo in questo retrobottega, tra gli autori che ti hanno influenzato, cosa troviamo. Però adesso ti spetta, certo, di nuovo un ruolo di DJ, okay. E quindi ti chiedo di lanciare la seconda canzone, che sono i Kraftwerk con Computer Love. Allora, biecamente mi si chiede di leggere ad alta voce un messaggio ricevuto su WhatsApp. Io lo dico, ma non me ne prendo responsabilità. Minchia ne sa di musica, caro Emanuele, cioè renditi conto di quello che dici, che quello che dici viene riportato in radio. Siamo sempre Sono Solo Nuvolette. È colpa di Giovanni in regia se io ho appena letto una frase con una parola francese, perché è francese quello, no? Ho sempre ospite Sergio Ponchione, che ha fatto la playlist di oggi. Questo, tra l'altro, non era il pezzo originale dei Kraftwerk, ma era un remix, dici, giusto? Sì, un remix fatto da loro poi negli anni 90, che si chiama, è apparso un disco che si chiama proprio The Mix. Ah, ok, interessante. Invece, tornando a parlare di fumetto, la tua formazione, la tua desiderio di esprimerti, di essere più autore, ti ha portato poi a uscire dai canoni Bonelli e a realizzare qualcosa di molto diverso, come già l'Oblique Uomo, o parliamo prima di qualcos'altro? Prima ci sono un po' di racconti brevi, si è usciti appunto sul Maltese, poi diciamo che l'Oblique Uomo è la prima cosa, diciamo, importante, con dei contorni... Ok. Quindi vedi tu se vuoi... Ok, no, allora parliamo dell'Oblique Uomo, perché è qualcosa che a me colpì molto anche da lettore. Ma se tu dovessi raccontare l'Oblique Uomo, perché il problema è uno, chi è online in questo momento può fare una googlata, oramai, certo, può dare un'occhiata, ma se tu dovessi raccontarlo adesso, circa un decennio di distanza, come ne parleresti? ne parlo come è una figura sempre affascinante che mi aveva, che all'epoca mi aveva assorbito quasi completamente, perché era un po' così, proprio il frutto di tutto ciò che mi frullava in testa quando ero un giovane baldo fumettista, le mie passioni filtrate con la mia sensibilità, cose che oggi magari riguardandolo ovviamente trovo comunque così abbastanza estreme, forse come col tempo uno diciamo si ammorbidisce un po', quindi certe visioni sono state poi un po' più levigate nel tempo, ammorbidite, le tematiche sono sempre quelle, cioè mi piacciono ancora oggi. Preferisco magari oggi dei canali più morbidi, ecco, forse più classici, che all'epoca invece avrei trovato magari noiosi. Ma col c'è tempo... un qualcosa nello sviluppo comunque degli artisti che parti volendo distruggere le regole. Non è così per tutti, sì, penso che sia diverso per la sensibilità. Però l'ho per me è stato abbastanza così, sì, certo. Quando uno vuol fare la possibilità di fare qualcosa di proprio, vuole. Io volevo un po' sconvolgere. Insomma, c'è sempre questa così brama di fare un po' il fenomeno. Per farti cioè, arrivo io e vi faccio vedere che poi è una cosa legata all'età, e quindi ed è giusto che ci sia. Poi con gli anni invece viene più una maggiore consapevolezza, quindi certe scelte magari si raffreddano un po', però c'è una regia e un controllo un po' più misurati e anche un po' più consapevoli, ecco. E l'obliquomo, vogliamo dire chi è? Non lo so, sì, così in breve, anche okay, se non è un po' complicato. è un'entità che vive nella fantasia umana e influenza le scelte artistiche delle persone, quindi ha influenzato degli interi movimenti artistici, una specie di musa ispiratrice. E obliquomo perché rappresenta tutto ciò che c'è di obliquo nella vita, cioè che è fuori dai canoni, ecco qua ci leghiamo le mie passioni di prima. Il retrobottega polveroso. Esatto, esatto. Se c'è un retrobottega polveroso probabilmente vi si nasconde l'obliquomo. È possibile, esatto. Che è una figura che vabbè, è debitrice di alcuni elementi, dallo stesso Sandman di Neil Gaiman, il Signore dei Sogni, che quindi una figura che in realtà non esiste nella realtà, ma esiste solo nella mente di chi la sogna. E io poi però l'ho fatto di diventare un po' un testimonial di una certa arte e modo di rappresentare le cose legato all'espressionismo tedesco, quindi al cinema espressionista, ai film horror vecchi, quindi è uno spauracchio che spaventa ma allo stesso tempo stimola, quindi non è una figura che terrorizza e basta, dà forma ai dubbi, alle angosce, alle paure delle persone, a volte spaventandole, a volte invece trovandogli anche delle chiavi di lettura inedite che possono aiutare anche a vivere meglio. Anche perché nel caos puoi trovarne la bellezza, nell'ordine assoluto trovi solo l'ordine. Sì, oppure per dirla con Fabrizio Di Altre, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Esatto. E quindi il personaggio è apparso prima su una rivista Black, che era pubblicata da Coccolino Press, e poi ho fatto un libro che ha raccolto i racconti più altri inediti. Il libro è uscito esattamente 10 anni fa, quest'anno sono 10 anni esatti, praticamente esaurito, diciamo. È un anno di anniversario. Sì, esatto, 40 anni miei, quindi sì. Ma gli uomini si può dire l'età, le donne no? Com'è questa cosa? Bah, io non ho problemi a dirla, tanto insomma. Beh, e cosa diresti tu, l'autore tu di adesso all'autore dell'obliquomo 10 anni fa? Gli chiederesti di moderarsi? Lo lasceresti libero? No, assolutamente no, sono ben contento di cosa ho fatto. Lo metterei un po' in guardia forse dal fatto che poi sul cammino succedono parecchie cose che a volte smorzano un po' gli entusiasmi, che invece a quell'età sono molto forti. Sì. Però fanno parte del gioco, ecco. La capacità è sempre quella di continuare a reinventarsi e a trovare motivi per continuare a fare quello che uno fa, anche se poi non si riesce a stare senza, quindi certo, è una cosa che si alimenta da sola. E visto che ci piace fare un programma anche rivolto, ci sono tanti studenti della Scuola Internazionale di Comics, di Master Art qui a Torino, ci piace anche dare qualche dritta. Quali sono gli ostacoli, secondo te, sempre in agguato verso chi, per chi si approccia al fumetto? Gli ostacoli sono tanti. L'ingrediente fondamentale è una grande entusiasmo che uno deve avere, ci deve credere, deve avere voglia di fare dei sacrifici, che poi sacrifici non lo sono, se ti piace veramente una cosa non è neanche proprio un sacrificio, però bisogna darci dentro, disegnare tanto e crederci. E poi gli ostacoli ci sono quelli che uno incontra durante la strada, quindi gli spazi che ormai ci sono ma sono molto in digitale, però non c'è un compenso dietro spesso, oppure figure editori che promettono cose e poi non le mantengono, pagamenti che non sempre ci sono, insomma sono tante le cose, oltre poi è proprio al cammino artistico che uno deve comunque fare. che quello uno dovrebbe portare avanti comunque. Oggi c'è un po' la tendenza così, questa grande visibilità che uno può avere, tanto fumo negli occhi, non fa così bene. Una volta forse si vedeva meno i frutti del proprio lavoro, meno complimenti si riceveva, però si era più stimolati a ancora migliorare. Sì, sì, è cambiato molto il mondo dal di fuori può non essere cambiato, ma negli ultimi 20 anni. Sì, io ho iniziato nel 1999 professionalmente, quindi ormai sono 16 anni, è cambiato tutto già dal 99 a oggi. Uno degli elementi piuttosto vistoso sono le fiere di fumetto. Certo. Ne chiacchieravamo prima a pranzo. Luca Comics era un palazzetto dello sport, poi un padiglione, adesso coinvolge tutta la città. Perché ormai le fiere sono delle fiere dell'intrattenimento globale, cioè non è più solo il fumetto è una piccola parte di quello che viene proposto. Esatto. E questo anche perché questo quasi sempre il principale operatore economico fa la tendenza del mercato, il fatto che la Marvel, dicono che la Marvel abbia salvato Hollywood, o comunque i fumetti abbiano salvato Hollywood, perché hanno trovato un bacino di utenza per storie, cioè un bacino di storie da cui attingere, che avevano già un pubblico. Certo. E questo è molto importante. Che rapporto hai tu con il fumetto di supereroi, da lettore di fumetti di supereroi, adesso che ci sono tutti questi film al cinema? Il rapporto che ho con i film tratti o con i fumetti attualmente di supereroi? Con i film. Praticamente nullo. Ah, ok, fantastico. Nel senso che ho visto i primi, però io sono legato a un'idea di fumetto supereroistico che non ho problemi a dire che è vecchia, ma a me, io mi rispecchio in quella visione lì, è quella che mi ha fatto sognare, che mi è piaciuta, ingenua, che non trovo tanto non trovo per nulla negli effetti speciali. Comunque c'è un'ottima fattura, per carità, però mi sembrano tutti compiti fatti uno dietro l'altro, intercambiabili come regia, poi assolutamente, mi sembra. Quindi non lo so, è un punto di vista mio, non riesco ad appassionarmi molto, sono più legato alla carta e sono ben contento che ci siano, per carità. Non so quanto portino i nuovi lettori al... Ma questo è un discorso indicativamente a parte. No, perché c'era C.B. Cebulski, esatto. È stato due anni fa, ho intervistato C.B. Cebulski, che è l'editor Marvel, cioè l'editor scout Marvel, che è la persona che va in giro a cercare nuovi talenti per la Marvel. Diciamolo comunque che ci sono parecchi disegnatori italiani che in questo momento disegnano per la Marvel e per la DC, che è la concorrenza, la casa che detiene i diritti, che pubblica i fumetti di Superman e Batman, quanto la Marvel pubblica i fumetti di Spider-Man e tutti gli altri personaggi. E una domanda però che volevo farti è: nelle tue radici, quali sono i personaggi, gli autori legati al mondo dei supereroi che ritieni più vicini a te? Ah, vabbè, si va dai classici anni 60, dall'Uomo Ragno di Lee e Ditko, ovviamente, fino ad arrivare ad Alan Moore, passando per Frank Miller, che mi sono letto tutto quando ero ragazzo e mi ha entusiasmato tanto. Fu una rivelazione, ovviamente, a 14 anni. Certo. E poi il ritorno del Cavaliere Oscuro o prima? Devil, prima, okay. Quindi. Sì, il ritorno del Cavaliere Oscuro in realtà è una bella storia, però non è fra le mie preferite di Batman. Okay. Preferisco Year One di Miller, sì. La trovo più, forse ancora più perfetta e così. Anche qui, come guida alla lettura, il ritorno del Cavaliere Oscuro è un'opera fuori continuity della DC, perché... Sì, una storia un po' immaginata. Butterebbe tutto all'aria, però è un Batman, un Bruce Wayne che si è ritirato dalle scene, che in un mondo in cui è passato del tempo, non c'è più stato Batman, un Bruce Wayne invecchiato che decide di tornare in campo e quindi è più incattivito, ancora più oscuro, e perciò è un cavaliere ancora più oscuro. I film di Nolan attingono ad alcuni elementi, ma non credo che vedremo mai un Batman non giovane, un Bruce Wayne non giovane al cinema. Magari ci arriveremo, però è qualcosa di un po' lontano dal sentire comune del cinema commerciale di Hollywood. Sì, beh, certo. È molto difficile, cioè l'eroe comunque deve essere... Gli eroi sono tutti giovani e belli, come cantava Guccini. Ok. Sì, anche se ormai c'è stato un progressivo, così, forse incattivirsi della figura dell'eroe anche al cinema, cioè anche il lato dark della Marvel. Ormai negli ultimi anni c'è questa svolta molto più realistica e dark che io non amo molto, perché amo più i fumetti nella loro ingenuità, forse così, più camp degli anni 60. In realtà mi piacciono molto anche cose fatte più recentemente, contenuti come Preacher, quindi serie dure con certi anche contenuti, però il taglio generale non lo so, trovo che c'è un incupimento, probabilmente parte da Watchmen, dello stesso Alan Moore, e lo stesso Alan Moore ha poi creato una linea di fumetti che è la ABC, dove lui invece omaggia tutto ciò che aveva distrutto prima con Watchmen, quindi l'ingenuità di un certo fumetto anni 60, strani personaggi, componente pop, esatto. Strani personaggi, gli autori di fumetti decostruiscono un mito, esatto, e poi esatto, vogliono ricostruirlo. Però in realtà forse cioè, il mestiere dei creatori di mondi è quello lì, creare e distruggere, no? Ok, ok, certo, certo. E, ho tempo della terza canzone. E come sempre Sergio Ponchione ho chiesto di fare la playlist, è la novità da questa puntata, poi tutti gli ospiti che vorranno farlo li lascerò liberi di farlo. Beh, continuiamo ancora con un brano un po' elettronico anni 80 che sono i Divo con un singolo del 1982 che è Peekaboo. E rieccoci in onda con Sono Solo Nuvolette, sempre dalla Biblioteca Archimede, in onda sulle frequenze digitali di Radio Archimede e sempre con Sergio Ponchione che oggi ha fatto la playlist. E ci sarà ancora un quarto pezzo poi con cui concluderemo. Sergio, hai disegnato la copertina dei 50 anni di Linus, hai disegnato tantissimi personaggi, ma tra questi o addirittura tra gli altri, quindi magari pescando i supereroi Marvel oppure i personaggi Bonelli, c'è qualche personaggio che non hai o avuto occasione di disegnare, che magari per qualche motivo non sono neanche più sul mercato, quindi potresti non avere occasione di disegnare, ma ti piacerebbe molto? Questo in generale, non sulla copertina di in generale, tra tutti i personaggi a fumetti. Ma non saprei, mi piacerebbe, vabbè, mi piacerebbe disegnare un braccio di ferro così, anche perché come omaggio alle mie origini, okay. Mi piacerebbe disegnare i supereroi quando ero ragazzo molto, poi col tempo in realtà mi sono abbastanza allontanato, visto anche questa svolta di cui dicevamo prima, un po' più così realistica, che non è che trovo così nelle mie corde. Personaggi particolari no, devo dire che col tempo ho guardato sempre di più ai contenuti, agli autori che ai protagonisti delle loro opere in quanto tali. Invece quando ero ragazzo è chiaro che c'è l'amore per l'uomo ragno, c'è l'amore per il personaggio, uno li sente quasi degli amici veri, perché insomma c'è proprio un altro tipo di rapporto. Ma tu, se non sbaglio, uno Spider-Man l'hai disegnato, un uomo ragno, per la storiella speciale con Michele Serra qui su Linus? Ho disegnato l'uomo, è stato un cameo, era una storia, era un omaggio a Steve Ditko che appunto è creatore di Spider-Man, quindi in una tavola ho messo anche lui, era impossibile non metterlo, però è stato un'eccezione. Come questo Superman in copertina di Linus, cameo. E invece allora, essendo tu un autore in evoluzione anche come segno, c'è questo personaggio del dottor Hackensack che vive molto sulle pagine di Linus, è stato più fumetto, adesso è diventato più un protagonista di illustrazioni. Sì, perché lo uso per una rubrica sulla scienza, visto che lui è uno scienziato che è il coprotagonista dell'oblic'uomo, è questo scienziato che ha scoperto l'esistenza dell'oblic'uomo e quindi questo rapporto conflittuale, cerca di ingabbiarlo, studiarlo, in realtà è sempre sfuggente. Okay. Invece su Linus l'ho usato come personaggio a sé, a solo, e personaggio fumetto per pensionati. Perché visto per che, pensionati? No, nel senso che lui è anziano, quindi c'è un po' questa immagine in target pensionati. Sì, no, mi piace, è stato un omaggio un po' a un certo tipo di fumetto che si è un po' perso forse, che era quello appunto così un po' più classico, anche il taglio delle storie è ovviamente molto più tranquillo dell'oblic'uomo, però è stata una scelta voluta. E poi adesso appunto ho finito il ciclo di storie che spero un giorno di raccogliere comunque in volume. L'ho mantenuto per questa rubrica di scienza, quindi è un testimonial che ormai da un anno e mezzo, due, appare in questa... Sì. E tra l'altro è anche lui in copertina, direi che... Vicino a un gruppetto di anzianotti, cioè da bere al personaggio di Enzo Lunari, Eritreo Cazzulati, in poltrona. Ah, ok. Sì. Visto che tanto il tempo corre, come sempre, non abbiamo neanche più moltissimo tempo... quando si chiacchiera, si ascolta buona musica, succede questo, il tempo corre. Nel tuo futuro di autore, io so, però che puoi anche dire pochissimo, che stai tornando dalle parti della Bonelli, però si può dire molto poco. Ma sì, più che altro, vabbè, finché non inizio praticamente, sì, infatti aspetto. Però tornerò a collaborare presto proprio con Sergio Bonelli editore, su un paio di progetti, e poi ci sono le cose mie, che c'è un nuovo libro che è una lunghissima gestazione, ormai da qualche anno sto raccogliendo materiale, ho già una traccia scritta, però per un motivo o per l'altro alla fine non riesco mai a mettermi come richiederebbe. Okay. E poi anticiparci qualcosa di cosa parla? Sì, senza spoiler, ma l'ho già anche detto, ho postato anche qualche immagine. Okay. E c'è la figura di Gustavo Roll che è protagonista, non è il protagonista principale, però è che è quasi il secondo protagonista del libro. Il protagonista principale è inventato, un personaggio che è un suo allievo che non è mai esistito in realtà. Okay, certo. Quindi, però si muove quindi fra sempre c'è molto mistero, molto c'è così dell'occultismo, è ambientato principalmente a Torino, cioè si svolgerà nello scenario torinese con altre figure protagoniste della vita di Roll, sette segrete, misteri torinesi, insomma diciamo che le tematiche non sono poi così lontane dall'obliquo, però sono più su un piano realistico, quindi dove uno può avere un riscontro più diretto, cioè meno surreale, meno psichedelico, meno se vogliamo fuori di testa, ecco. Ma ti riconosceresti nell'etichetta? Lo diresti che è un graphic novel questo? Ah vabbè, lì uno può dire cosa vuole, è un fumetto, poi se serve a vendere ormai bisogna adeguarsi a queste bieche logiche di mercato. Ma quindi tu riconosci il termine graphic novel o lo abiuri? Allora, per me il termine graphic novel sono le Marvel graphic novel, erano gli albi speciali della Marvel che faceva negli anni 80, che io leggevo da ragazzo, si chiamavano Marvel graphic novel, per me la graphic novel è quella lì. Erano degli albi speciali, fine, con una storia unica. No, poi vabbè, a parte questo lo riconosco, ma sì, nel senso, no, non mi piacciono le etichette in nessun campo, sono comode a volte. Poi se serve a farti dialogare con uno che non sa nulla di fumetti e se dici graphic novel ti dà ascolto, chiamiamolo graphic novel. Non vorrei farne a meno, è chiaro, però insomma, queste sono le cose. Ma a volte è sempre questione di etichetta, nei confronti del pubblico generalista serve un'etichetta. Infatti, come nella musica, se è un genere deve essere così, perché sennò c'è troppo di disordine. Però io tendo, insomma, anche nelle mie cose che faccio sempre a cercare di spaziare in vari campi e stili, quindi ed è una cosa che il pubblico va un po' in cortocircuito su quella cosa lì, perché il pubblico ha bisogno sempre di cose un po', sempre, non dico ripetitive, però facilmente identificabili, riconoscibili, tranquille. Se un autore si mette a fare una cosa diversa già non capiscono bene perché lo faccia, perché invece insomma, essendo uno zappiano, come abbiamo messo prima un pezzo di Frank Zappa, mi piace mischiare un po' tutte le carte. Ok. Tra l'altro, per seguirti hai una pagina Facebook, anche una pagina personale. Sì, c'ho un profilo, è una fanpage, poi c'ho un blog, anzi ne ho due. Sergio uno Ponchione, penso che siano facili da trovare. Sì, certo. Il blog si chiama Mondo Obliquo, trovate anche quello con Google. Okay. E l'altro si chiama Splog, è un blog che ormai latita un po' perché mettevo dei lavori inediti, cose nel cassetto. Però ormai i blog sono, insomma, stanno perdendo un po' colpi come seguito, perché con Facebook ovviamente è tutto più veloce. Sì. Allora, diciamo che ormai lo uso per mettere i lavori che faccio, ecco. Una volta scrivevo anche qualche pezzo, era un po' più organico. Diresti che nella tua evoluzione adesso hai più voglia di raccontare storie di quanto avessi voglia di invece di sperimentare col linguaggio in passato? Forse sì, diciamo di sì, perché una volta ero molto interessato alla forma, a sperimentare. Perdonate il paragone, lo stesso Spiegelman all'inizio era autore di un sacco di storie sperimentali su Raw e poi si è concentrato su cose più da lungo respiro. E uno è forse ancora più inquieto da giovane, questa inquietudine ti porta a voler giocare con linguaggi diversi, anche per trovare quello che poi diventerà il tuo, perché se non provi varie chiavi non saprai mai quello che non è la tua strada, non la troverai mai. Esatto, queste sono sempre quelle cose che non escono molto dall'ambito mainstream. Il frequentatore occasionale non riesce a capire che c'è una scelta di linguaggio. Certo, perché il mainstream ti fa sottostare a certe regole che sono quelle, quindi prendere o lasciare. Poi se riesci a mettere del tuo anche nel mainstream, ottimo. Esatto. Molti autori americani che io amo, che ho omaggiato anche in un lavoro, Ditko Kirby Wood, sono riusciti a mettere del loro nel mainstream. Questo è un trionfo notevole. E anche qui, giusto per sempre togliere un po' di nozionismo, rendere un po' meno certe nozioni che noi diamo per scontate, il mainstream è principalmente il... in qualsiasi ambiente editoriale o culturale, ciò che va per la maggiore o comunque ciò che è più di massa. Per noi la letteratura mainstream è la narrativa senza genere. Il fumetto mainstream stupirebbe, e questo avendo tradotto un volume di Scott McCloud e l'ho scoperto in corso d'opera, che il fumetto mainstream per gli Stati Uniti è il fumetto di supereroi, che per noi è comunque invece qualcosa di genere. però mainstream è tutto ciò che è il flusso principale, ciò che ha un mercato maggiore. Maggiore, sì, beh certo. Io mi sono sempre mosso anche in altri ambiti invece, in cose indipendenti, anche prodotti con tirature molto, molto, molto basse, un po' per i motivi di prima, un po' perché certe cose si possono fare solo in certi contesti, quindi esatto. È molto più difficile anche fare. Anche lì si potrebbe, in una schematizzazione molto semplice, potrebbe essere mainstream da una parte e underground dall'altra. Sì, però non è qua, bellissimo, no, sempre parlare sì, con volendo, parole inglesi, però sì, perché poi in mezzo c'è tutta una fetta di cose che non sono né uno né l'altro, esatto. Ecco, sì. Anche perché poi se vai a vedere, e anche qui un altro momento di divulgazione sul fumetto. Perché dico, vabbè, questo mi prendo sul serio 30 secondi e poi smetto subito. E dal fumetto indipendente americano, dal fumetto underground, della scena del mini comics, la definiscono degli anni 90, sono usciti Cerebus di Dave Sim, Usagi Yojimbo, e qui casco perché mi sfugge il nome dell'autore. Stan Sakai. Bravo, grazie. E Kevin Eastman e Peter Laird, che hanno inventato delle tartarughe ninja. È uno dei più grossi successi commerciali di tutti i tempi, anche se tradite, come scrive bene Michele Serra su Linus del mese scorso. E quindi il Novecento ci ha lasciato tutta una serie di passaggi tra alto e basso, passaggi e ripassaggi, flussi e riflusso, quindi oramai è molto più complicato dare queste etichette. Sì, diciamo che credo che il senso delle cose sia proprio nell'equilibrio così nell'intersecarsi fra alto e basso, cioè come anche per chiudere, come abbiamo iniziato con Linus, una delle filosofie di Oreste Del Buono era proprio quello. Oreste Del Buono, di direttore storico di Linus, era quello di appassionarsi a tutto, cioè alla cultura alta e alla cultura bassa, come traduttore di grandi classici di letteratura fino a leggere invece gli oroscopi sulle riviste e quindi tutto sta nella capacità che uno ha di discernere quello che ha davanti, di metabolizzarlo e riproporlo magari in altre forme. Tutto può tornare utile, tutto in realtà ha la stessa importanza se uno vuole. Il segreto è saperlo cogliere, trattare e dargli quella visibilità e renderlo interessante, che invece magari a prima vista può sembrare essere una cosa così superficiale, invece assolutamente non lo è. Certo. Quindi, grazie Sergio per queste belle riflessioni, è stato un piacere averti qui con noi. Sergio Ponchione, autore della copertina dei 50 anni di Linus, ma se poi andate su Facebook, sul suo blog, vedete tutta una serie di sue cose. Speriamo di poter presto parlare di te e delle tue cose in Bonelli appena usciranno. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, grazie a Giovanni in regia, grazie a Cosimo Amendolia che mi ha dato l'opportunità di condurre questa striscia settimanale, che mai come in questa settimana è una striscia, visto che Linus ha ospitato le più importanti strisce del fumetto internazionale che molti abbiamo scoperto sulle sue pagine. Fulvio The Cat su Twitter, Biblioteca Archimede pagina Facebook, Radio Archimede pagina Facebook, Sono Solo Nuvolette pagina Facebook. 3 click, fate i compiti mi raccomando, e ci sentiamo la settimana prossima sempre alle 15, sempre Sono Solo Nuvolette. Ciao a tutti.